da quel cespuglio, la cucina che avrà il sole di mattina, dove adesso è il mio berretto, lì la camera da letto, in direzione dello stagno, costruiremo il nostro bagno, entra pure la tua casa, la tua casa fra le rose. Ora appena prendo il mese, il primo muro, la tua casa te lo giuro. Ora siediti qui, dove ci sarà il camino, e pensa quando tutta quella gente, pur passandoci vicino, non vedrà più niente. Quella porta non è un sogno, è robusta, è di legno, non nascondere la mano, non nascondere il tuo seno. Ora non c'è più nessuno, più nessuno, ora non c'è più nessuno. Letto, stendo a terra il telo, ora alza gli occhi al cielo e dimmi quanto mancherà al tramonto. Ci vuol buio a questo punto, voglio farti tenerezza, la tristezza si dissolve con il fumo, resta solo il tuo profumo, il profumo della pelle, lo sfondo delle stelle, un vago senso di dolore che scompare col respiro del tuo amore.